Radio 24 e Sergio Bonelli Editore presentano Dylan Dog, l'indagatore dell'incubo. Il lungo addio. Da una storia di Tiziano Sclavi. Regia di Gaetano Cappa. Quante volte l'avete sentita, quella che il pomodoro non riesce a dormire perché l'insalata russa? Oppure quella dei due maiali che vanno a un telequiz e dicono al presentatore: avete delle domande da porci? Ve lo dico io, un sacco di volte. È il genere di freddure che Grucio ama rifilarti nei momenti più inopportuni, ovvero sempre. Ma quando Marina Kimball suonò al nostro campanello di Craven Road 7, il mio assistente, amico e rompiscatole personale, si mostrò stranamente compassato. Sì? Vorrei parlare con Dylan Dog. Chi devo dire? Mi chiamo Marina. Marina Kimball. Capo, la signorina Kimball desidera parlare con te. Falla entrare. Si accomodi. Grazie. Molto piacere. Io vado a preparare il tè. Si sieda. Grucio. Sì, Dylan? Ti senti bene? Benissimo. Perché? No, non, niente, così. Forse sono capitata in un momento poco opportuno? No, è solo che il mio assistente oggi è un po' strano. Veramente a me è sembrato normale. Appunto. Chiamami pure Dylan. E io ti chiamerò... Scusa, non ricordo... Marina. Già, Marina. Che cosa posso fare per te? Marina. Giuda ballerino. D'un tratto, il velo dei ricordi si squarciò. All'improvviso mi trovavo a Moonlight, un villaggio a picco sul mare, ed ero ritornato il ragazzo magro di tante estati prima, occhi negli occhi, mani nelle mani, con una giovanissima Marina. Tu sei quella Marina, a Moonlight, quasi 20 anni fa. Sì, credo proprio di sì. Oh, Dio santo. Gradisce latte? Zucchero? Sì, grazie, tutte e due. Abiti sempre a Moonlight? Sì. Ma come mai sei a Londra? Non lo so. Come, scusa? Non lo so. È questo il motivo per cui sono qui. Cioè, anche per rivederti, certo. O almeno credo. Il fatto è che mi sono ritrovata a Londra all'improvviso e non so come ci sono arrivata. Un'amnesia, intendi? Ma certo, volevi venirmi a trovare. Devi aver preso il treno. Non ricordi proprio niente. Niente. Come allora si arrotolava una ciocca di capelli. Il suo volto triste e bellissimo mostrava appena i primi segni del tempo. Senti. Sì? Niente. Fai ancora quel gesto. Ti arrotoli una ciocca di capelli. E tu dici sempre. Giuda ballerino, continui a dire senti come se dovessi rivelarmi chissà che e poi finisci con un bel niente. Ne ho le scatole piene, sai? Allora non dirò neanche senti, va bene? Uffa, dai, non fare così. Aspetta! Stai bene? A parte l'amnesia, intendo. Vuoi che ti porti da un medico? No, vorrei che tu mi accompagnassi a casa. A casa? A Moonlight? Ma così, subito? Cioè, voglio dire, può darsi che la memoria ti torni da un momento all'altro. Forse sei venuta a Londra per restarci qualche giorno. Senza bagagli? No. Io credo di aver viaggiato un po' come una sonnambula. E ora voglio tornare a casa, ma non da sola, ho paura. Però se non ti va... Ma sì, certo. Non vuoi neanche fermarti per stanotte? In albergo, dico. No, ti prego. Il sole era appena calato quando partimmo. Marina mi indicò la direzione. Senza sapere come, era certa che fosse quella giusta. Ci ritrovammo su un'autostrada sconosciuta, del tutto deserta. Un nastro d'asfalto sospeso nello spazio, che sembrava puntare dritto alla Via Lattea. Era come quando in un ambiente affollato d'un colpo piomba il silenzio. C'era solo il mio vecchio maggiolone bersagliato dalla luce delle stelle. E io e Marina a fare i conti con tutto il tempo che c'era scivolato addosso. Cos'era quella targhetta sulla porta? Indagatore dell'incubo. Uno dei tuoi scherzi. Da grande voglio fare il nano in un circo. Che stupido! No, davvero. Sono un detective privato, ma mi occupo solo di casi, diciamo, insoliti. Mostri, zombie, vampiri, fantasmi, roba così. Ma sono cose che non esistono. Già, forse no. Ma cos'è che esiste davvero, poi? Ma ehi, non hai perso neanche la tua filosofia da due soldi. Chi ti vuol bene ti fa piangere. Aspetta che me la segno. Era di Cervantes, gna gna gna. Senti. Sì? Niente, ci sei cascato ancora. Ah, stupida, stavolta ti... Attento! Il grido di Marina ci riportò al presente. Lui era là davanti a noi. Un ragazzino in bicicletta, tutto preso dal modellino di un aeroplano stretto in mano. Solo, sperduto nel vuoto della notte. Attraversò la strada senza guardare. Dio santo! È sbucato all'improvviso! Scendemmo dall'auto in preda al panico. No, non è possibile! Non c'è! Oddio! Non sarà mica sotto! Cercai dappertutto, ma del ragazzino non c'era più traccia. Svanito nel nulla. No, no, ma l'hai visto anche tu? Anzi, sei stata proprio tu a gridarmi attento! Sì, l'ho visto. Assomigliava a mio figlio. Forse è riuscito a pedalare via. Ma no, ho sentito il colpo. Il muso della macchina dovrebbe essere ammaccato. Non c'è nessun segno, invece. Ritrovai il suo giocattolo, l'aeroplanino. La memoria corse di nuovo al passato. Con 5 centri al tirassegno di un Luna Park quella sera, avevo vinto proprio un aeroplanino e l'avevo dato a Marina. Grazie, Dylan. Lo regalerò a mio figlio un giorno. Non sapevo che avessi un figlio. E infatti non ce l'ho. Volevo dire che quel bambino assomigliava al figlio che avrei voluto avere, come me lo sono sempre immaginato. Di nuovo accadde l'incredibile. Il bambino ricomparve, ma era diventato enorme, gigantesco, uno spettro che stringeva di nuovo l'aereo in una mano, mentre con l'altra afferrava la nostra macchina e la guidava, concentrato nel suo gioco, sospeso nel tempo e nello spazio. Giuda ballerino, ma cosa? Dylan, guarda! Oh, guarda! Il Luna Park! Quel Luna Park! No, non può essere lo stesso, Marina. E poi che ci fa qui? Non mi sembra una zona di grande passaggio. La ruota! Ci andiamo! Ah, sei matta! Io soffro di vertigini! Completa! Fantastico! Completa! Ma se ci siamo solo noi? Sì, parte! Via! Ah, giù da ballerino mi sento male. È bellissimo quassù. E saliamo ancora. È proprio quello che mi preoccupa. Le sue labbra si avvicinarono alle mie, sulla ruota panoramica di quel Luna Park ai confini della Terra. La ruota si staccò lentamente dal sostegno e volò via. Attorno a noi, stelle forse morte da milioni di anni si riflettevano sul metallo dei satelliti in orbita. Senti. Se rispondi niente ti butto giù. Era questo che volevo dire. Cioè, fare. E non dirò mai più, senti. Mai più. Forse era meglio non saperlo. Ho scritto perfino una canzone su questo, sai? Davvero? Voglio sentirla. Sì, sì, sì, sì. Veramente, non so neanche se me la ricordo. Vediamo. Non aveva titolo. Anzi, no. Il titolo erano 3 puntini di sospensione. E lunghe ore a ingannarci così, a dire lui e lei, sempre gli altri. E i palliativi sono sempre tanti, per non ammettere che siamo qui. E mi hai sospeso su un filo di lana, e mi ci terrai ancora per molto, giovane amore, fiore non colto, o forse sì, ma da un'altra mano. Ma dimmi tu, non è meglio così? Immaginare ed illudersi sempre, qui ad aspettare qualcosa o niente, qui ad aspettare un no, un sì, che in ogni caso sarebbero fine di tutto questo, che almeno è un ricordo, così, studiato giorno per giorno, fatto di tanti cristalli di brina. È bellissima. Ed è proprio così, sai? Sì, è meglio immaginare e illudersi sempre. E questa non è la fine. Non è la fine del ricordo. Perché è un sogno, vero? È solo un sogno. Sì. Vecchie automobili cariche delle persone che avevano voluto bene a Marina fluttuavano nello spazio e si avvicinavano pian piano. Marina? Ma sì, è proprio lei! Ciao, Marina! Piccola mia! Marina! Che mi venga un colpo! Beh, veramente mi è già venuto, se sono qui! Mamma! Papà! Robby! Il vecchio Alfie! Marina! Robby! Su una decappottabile c'era un tipo dallo sguardo stolido. Era Robby, il mio rivale in amore dei vecchi tempi. La sua auto si stava lentamente capovolgendo, ma lui rimaneva ben saldo sul sedile, a testa in giù. Arrivò così vicino da baciare Marina. Quel sogno cominciava a rompermi. Perdonami. Oh, Robby, ti ho già perdonato. E poi ormai non importa più. È finita. È finito tutto. Finito! Un altro giro? No, no. Per ora basta. Tornerò da sola per tanti altri giri. Oh, guarda, Dylan! La macchina che predice il futuro, dai, vieni! Prima io o prima tu? Solo tu. Io il mio futuro me lo faccio da solo. Ecco, le tue solite frasi storiche. Questa poi è più scema del solito. Metti che esci di qui e vai sotto un camion. Vediamo un po' come te lo fai, sto futuro. Un camion, su quell'autostrada. Il giorno che ci passa lo proclamano festa nazionale. E poi piantala di... È incredibile. Dice, incontrerete un antico amore e farete con lui un lungo viaggio. Una coincidenza. Ma... Robby che fine ha fatto? L'ho sposato. Ma non è stato un granché come matrimonio. Lui beveva, sai, e mi picchiava. Insomma, mi picchiava le poche volte che era con me e non al bar o in giro con i suoi amici o a correre sulle macchine sportive che comprava con i miei soldi. Il giorno che si è infilato sotto un tir non ho versato una lacrima. Il camion... Ecco perché l'hai detto. Scusami, Marina. Umorismo nero, autoironia. Qualcosa ho imparato da te. Qualcosa ho imparato da te. Qualcosa ho imparato da te. Mi risvegliai con la testa appoggiata al volante. Hai avuto un colpo di sonno. Per fortuna sei riuscita a frenare in tempo. Già, un colpo di sonno. Lo pensavo anch'io nel sogno. Ma è stata una cosa di pochi secondi. Hai addirittura sognato. E che cosa? Scommetto il Luna Park che c'era qui una volta. Ti ricordi? Ci siamo stati. Sì, sì. Marina, senti... Cosa? Niente. Niente. Riprendemmo il nostro viaggio, ma i ricordi di quella lontana estate continuavano a rincorrerci. Il treno per le grotte turistiche è in partenza dal binario 2. Chissà come saremo da grandi. Io non so. Tu ancora più scema. Eh no, non ci casco più nel tuo umorismo nero, rosso o giallo. Dicevo sul serio. Probabilmente come saremo non lo sapremo mai. Alla fine delle vacanze te ne andrai e può darsi che non ci vedremo più. A Londra studierai, andrai all'università e diventerai... Vediamo, direi professore con quell'aria da sputa sentenze che hai sempre. Io non ho affatto... Zitto. Io invece credo che resterò a Moonlight. Pianterò gli studi e mi cercherò un lavoro per aiutare i miei. Segretaria, penso. Mi sposerò. Forse proprio con Robby. E io spaccherò il muso a tutti e due. Zitto, ho detto. Tanto non potrai. Sarai a Londra e passerai da una ragazza all'altra. Poco piacere e tanto dolore. Te l'ho detto, non ti sposerai mai. Mentre io avrò un bel bambino. Uno, mi basta. E lo vedrò crescere, andare a scuola, sposarsi a sua volta. Diventerò nonna. Invecchierò serenamente. Mio Dio, pensai. Questo è l'orrore. L'orrore. Thank you. smettemmo di battibeccare nemmeno quando scendemmo dal treno per infilarci in una grotta turistica, dove trovai la pistola che poi avrei usato per sempre. Fu con quella che affrontai un'orribile creatura sbucata da un anfratto roccioso. Un mostro! C'è un mostro! Dylan, la pistola! Marina mi lanciò lo scalcinato revolver che avevamo appena trovato. Dylan. Il mostro! Ho messo in fuga il mostro! La pistola funziona! Le ultime parole famose. Sotto il mio sguardo allibito, la pistola cadde a pezzi. La rimetterò a posto. Sarà la mia pistola, quella con cui ho sconfitto il mio primo mostro. Poi scoprì che in realtà il mostro era Robby, con una maschera scema su quella sua faccia ancora più scema. Fu in treno, al ritorno, che mi decisi. Senti... Non ci casco. Uffa, proprio adesso che volevo dirti una cosa importante. Non la saprai mai. Allora te la dico io una cosa importante. Marina, ti amo. Lei rimase lì, a bocca aperta. Le parole che volevo sentirle dire, però, non arrivarono. E nemmeno 20 anni dopo, cioè adesso. Allora, adesso... Troppo tardi. Non restava che una manciata di patetici ricordi. Mi tornò in mente quella volta che mi ero entusiasmato alla vista di un maggiolone cabriolet che sfrecciava sulla strada. Wow, la mia macchina preferita! Quello scatolone? Giù da ballerino, mai una volta che dica una cosa giusta, eh? E poi cosa vuoi capire tu di macchine? Certo, più di te. Ti va un giro, bella? Wow, Robby, quella sì che è una macchina. Bye bye, ragazzino. Non ha l'età per guidare. Ora vado a dirlo a suo padre e alla polizia. Era salita al volo piantandomi lì. E un attimo dopo la mia dichiarazione d'amore. Che vergogna, volevo morire. Feci la valigia in fretta e furia e passai a salutarla sulla spiaggia. Io me ne vado, ciao. Ma se dovevi partire tra una settimana? Mi sono stufato di questo cavolo di paese. Ah, allora ciao. Mi avviai verso la stazione dei treni con la certezza che lei mi avrebbe seguito per dissuadermi. Invece niente. Potevi almeno venire alla stazione a salutarmi. Dylan, tu non capivi. Eri già adulto. Non capivi che io ero solo una ragazzina. All'apparenza disinvolta, in realtà piena di paure. Con Robby non mi sembrava che avessi tante paure. Ecco, vedi, non capisci neanche adesso. Con lui sapevo di poter fare la civetta. E poi era solo per ingelosirti. Insomma, ho sbagliato tutto. È questo che vuoi dire? A quest'ora potremmo essere una coppia felice e io ho rovinato la mia vita. E forse la tua. Occhio a un'altra frase storica. È impossibile rovinare la vita. È già una rovina totale. E con questo eccoci a Moonlight. Ehi, non solo è rimasto lo stesso, è peggiorato. Sembra un paese di fantasmi. Già. Parcheggia pure lì. Vado a casa a piedi, ho voglia di camminare un po'. Potrei... Giù da ballerino, ma che mi succede? Sono tornato ragazzino. Non ho il coraggio di chiederti se posso accompagnarti. Ma certo, stupidone. Ci prendemmo per mano e raggiungemmo la spiaggia di Moonlight. Quella spiaggia. C'era la stessa luna di allora. D'un tratto, lei sfilò la mano dalla mia e corse verso il paese. Marina, aspetta! Forse possiamo tornare indietro nel tempo. Rivivere tutto da capo. L'abbiamo fatto, Dylan. L'abbiamo già fatto. Non è vero. Adesso puoi dirmi quello che non mi hai detto sul treno. Che anche tu mi ami, come ti amo io. Mi hai sentito, Marina? Ti amo! Sparita. E io non ricordavo più dove abitava. Ha ragione lei. Ha sempre avuto ragione lei, pensai. Il grande amore che non avrei mai dimenticato. E ho dimenticato anche dov'è la sua casa. Dio, essere ragazzi, che crudeltà. Buh! No! E magari stavi pensando a una delle tue frasi storiche. Ma che... L'indagatore dell'incubo che si spaventa se uno gli fa buh. Ah, Siamo arrivati. È qui che abito. Te l'eri dimenticato, confessa. Già. Ora io entro. Non tentare di baciarmi, ti prego. Dimmi solo ciao. Come vuoi. Ciao. No, aspetta, senti. Cosa? Niente. Questa me la paghi. Ciao, Marina. Ciao, Dylan. E grazie. È stata la notte più bella della mia vita. Anche la mia. Col sorgere del sole e il dissiparsi delle ombre notturne, le porte della chiesa si spalancarono per lasciar passare la bara di Marina diretta al cimitero. Ma perché scoppiai a piangere? Io lo sapevo. L'avevo sempre saputo. Non mi dettero nemmeno una spiegazione decente su come fosse morta. Com'è successo? Ma è sempre stata una ragazza un po' strana. Un incidente. Diciamo un incidente. Dicono che quando si muore si rivede tutta la propria vita come in un film. Ma forse invece non si fa altro che rivedere qualche frammento di realtà o di sogno. Forse mi ricordo male. Forse non andò in quel modo. Marina! Ero andata al salto del galeone. Volevo buttarmi giù. Sciocchina. In carrozza, si parte! Arrivo! Oh no, ti prego, resta. Non posso, ma tornerò. La prossima estate tornerò. Sì, da qui all'estate prossima. È una vita. Beh, ciao! Aspetta, sul trenino di prima, alla grotta, non ti ho risposto. Come? Non ti sento! Volevo dirti che ti amo anch'io! Non ti sento! Ti amo anch'io! Me lo dici la prossima estate! Ma quanto tempo manca alla prossima estate? Dylan, vado a farti un tè o preferisci star solo? Solo. E grazie, amico mio. Dylan Dog, l'indagatore dell'incubo. Il lungo addio. Adattamento radiofonico di Franco Busatta e Gaetano Cappa. Con Davide Capostagno, Alberto Fasoli, Jacopo Fracasso, Alberto Onofrietti, Gualtiero Scola, Massimiliano Speziani, Irene Timpanaro e Margherita Varricchio. Tecnico del suono Paolo Corleoni. Coordinamento di produzione Guido Scotti. Suono, musica e regia Gaetano Cappa.